giuro, guardando il mio presente non vedo più futuro. Perdo il puro e il guru di me, il mondo si allontana e non ne parlo con nessuno. Trovo cura su un beat mentre scappo da chi mi ansima sul collo, portandomi allo stremo, un vicolo cieco. Sudo freddo, freddo, stretto al muro. Credimi, non è divertente quando parlano i fantasmi e sei il solo che li sente. Intense scariche di tensione a cui non so dare un nome, mangiano il cuore. L'angelo ribelle appare alla svelta, scompare in fretta, la sua mano l'ho già stretta. Sotto i piedi la terra trema, bene e male confondo, non distingo, maglia di una stessa catena. E resterà così finché c'è una pergamena. Chiuso in questa stanza, temperatura alta, aspetto la speranza in una nuova alba. Brucio dall'interno, scendo al centro del mio inferno. Sono al limite, dimmi che non mi resta altro che spingere. Brucio dall'interno, scendo al centro del mio inferno. Sono al limite, dimmi che non mi resta altro che spingere. Indefinibile giornate a limite, sopportazione, reazione. Sondo lo scibile, cannibale, voracità. Sogni frenati da un vero nero, soglia di tensione zero, sclero, banalità. Sommergono le ore, si susseguono, falsità che si palesano. Le pare che riaprono, ferite mai chiuse, aspettative deluse. Non c'è luce, buio, zone d'ombra incluse. Sensazioni recluse, tendono a dispiegarsi, costrette dal da farsi, ad autolimitarsi. Acme raggiungibile, scenario tetro, come vetro impenetrabile, variabile, giudizio e metro. Afferro attimi fuggenti come sabbia in clessidra. Personalità multipla, più teste, idra, vibra. Sotto pelle voglia di misurarsi. Diamoci un nuovo nome in questi giorni persi, che spezzi la monotonia. Scindo il mio essere in tessere, che ricompongo in preda d'apatia. Salvo poi cadere in serie, un perfetto gioco del domino. Rispunta dei fantasmi, basta solo che li nomino. Brucio dall'interno, scendo al centro del mio inferno. Sono al limite, dimmi che non mi resta altro che spingere. Brucio dal mio interno, scendo al centro del mio inferno. Sono al limite, dimmi che non mi resta altro che spingere.